Il terzo anello, ad alta voce, la montagna incantata di Thomas Mann. Un'ora passò, un'ora comune, non lunga, non breve. Passata questa, un gong risuonò nel palazzo e nel giardino, prima lontano, poi più vicino, poi di nuovo lontano. Lo spuntino, disse Joachim, e lo si udì alzarsi. Anche Castorp terminò per questa volta la cura ed entrò in camera per mettersi un po' in sesto. I due cugini si ritrovarono poi nel corridoio e scesero insieme. Castorp disse: «Beh, ci si stava benissimo. Che tipo di sedie sono queste? E se qui si possono acquistare, me ne porto una ad Amburgo. Par di stare in paradiso. O credi che Behrens le abbia fatte costruire apposta, su sue istruzioni?» Joachim non lo sapeva. Deposero il soprabito ed entrarono per la seconda volta nella sala da pranzo, dove già si mangiava a tutt'andare. Nella sala era diffuso un bagliore bianco, tanto era il latte, e a ogni posto ce n'era un bicchierone che avrà tenuto mezzo litro. «Eh no!» esclamò Castorp quando si fu accomodato a capo della tavola fra la cucitrice e l'inglese, e rassegnato ebbe svolto il tovagliolo, benché fosse ancora gravato dalla prima colazione. «Dio mi guardi, il latte non lo posso prendere, ora meno che mai. Non si può avere del porter?» E con questa domanda si rivolse garbatamente alla nana. Purtroppo non ce n'era, ma lei gli propose birra di Kulmbach e gliela portò. Era una birra densa, nera, dalla schiuma bruna, e sostituiva benissimo il porter. Castorp bevve assetato dall'alto calice da mezzo litro e mangiò dell'affettato freddo con pane abbrustolito. Anche questa volta c'era pronta la pappa d'avena e molto burro e frutta. Egli riposò almeno lo sguardo, dato che non era in grado di prenderne, e osservò gli ospiti. La massa cominciò a scindersi. Persone singole ne emersero. La sua tavola era tutta occupata, tranne il posto di fronte a lui, come gli spiegarono, riservato al dottore. Infatti i medici, se appena avevano il tempo, prendevano parte ai pasti in comune, ora una tavola, ora un'altra. Perciò a capo di ciascuna c'era un posto libero. In quel momento nessuno dei due era presente. Stavano facendo, si disse, un'operazione. Di nuovo entrò il giovane coi baffi, chinò una volta il mento sul petto e si sedette pensieroso e taciturno. Di nuovo la bionda magra era al suo posto e mandava giù cucchiaiate di yogurt, come se fosse il suo unico cibo. Al suo fianco era seduta questa volta una vecchia signora, piccola e vivace, che in russo cercava di convincere il giovane silenzioso, il quale la guardava inquieto e rispondeva soltanto con cenni del capo, mentre faceva un viso come se avesse in bocca qualcosa di disgustoso. Di fronte a lei, all'altro fianco della vecchia signora, stava un'altra ragazza, bella, il viso florido, il seno alto, i capelli castani in ordine e graziosamente ondulati, gli occhi tondi, bruni, infantili, e un piccolo rubino al dito della bella mano. Rideva molto e parlava russo anche lei, soltanto russo. Si chiamava Marusia, udì Castorp, il quale osservò anche di passaggio che quando lei rideva o parlava, Joachim abbassava lo sguardo, con un'espressione severa. Settembrini comparve in un ingresso laterale e arricciandosi i baffi s'avviò al suo posto, che era in fondo alla tavola messa di traverso, davanti a quella di Castorp. Quando si sedette, i suoi commensali scoppiarono in una sonora risata. Doveva aver detto una malignità. Castorp riconobbe subito anche i membri dell'associazione Polmone Unico. Ermine Klefeld, con gli occhi imbambolati, si spingeva verso la sua tavola laggiù, davanti a una porta della veranda, e salutò il giovane dalle labbra gonfie. La Levi, color avorio, era seduta accanto alla grassa e lentiginosa Iltis, fra sconosciuti, alla tavola di traverso che era a destra di Castorp. «Questi sono i tuoi vicini di camera», sussurrò Joachim chinandosi verso suo cugino. La coppia passò rasente a Castorp, andando verso l'ultima tavola a destra, cioè la tavola dei russi incolti, dove una famiglia con un brutto ragazzo stava già ingoiando quantità enormi di porridge. Allorché, nello stesso istante, udì sbattere la porta vetrata a sinistra, con un fragoroso tintinnio, come alla prima colazione. Non ebbe come la mattina un soprassalto, ma fece soltanto una fiacca smorfia, e mentre stava per volgere la testa da quella parte, sentì che gli riusciva troppo gravoso e non metteva conto di farlo. Perciò nemmeno questa volta arrivò a stabilire chi fosse il maleducato che trattava la porta a quel modo. La verità è che la birra a colazione, la quale di solito gli annebbiava soltanto moderatamente il cervello, quel giorno lo stordì e paralizzò del tutto, come se avesse preso una botta in fronte. Aveva le palpebre pesanti come piombo, e quando per gentilezza tentò di conversare con la inglese, la lingua non obbediva più regolarmente al semplice pensiero. Gli ci voleva un grande sforzo per mutare la direzione dello sguardo, e per giunta le insopportabili vampe del viso avevano raggiunto tutta l'intensità del giorno precedente. Gli pareva di avere le guance gonfiate dal calore. Respirava con fatica. Il cuore gli batteva come un martello imbottito. E se tutto ciò non lo faceva soffrire granché, lo doveva al fatto che la sua testa era nelle condizioni di chi abbia aspirato 2 o 3 boccate di cloroformio. Ora il dottor Krokowski fece ancora in tempo a venire e a sedersi alla stessa tavola di fronte a lui, ma Castorp lo notò soltanto come in sogno, benché il medico lo fissasse ripetutamente intanto che conversava in russo con le donne al suo fianco, mentre le giovani, cioè la fiorente Marusia e la magra divoratrice di yogurt, chinavano gli occhi, sottomesse e pudibonde. D'altronde va da sé che Castorp seppe contenersi, e siccome la sua lingua era renitente, preferì tacere e maneggiò forchetta e coltello persino con squisita educazione. Quando suo cugino gli fece un cenno e si alzò, lo imitò. Rivolse un cieco inchino ai commensali e con passo decoroso uscì dietro a Joachim. «Quando si continua la cura?» domandò appena furono all'aperto. «A quanto vedo è la cosa migliore che ci sia qui. Non vedo l'ora di sdraiarmi ancora su quella sedia». «Andiamo a passeggiare lontano?» «No», rispose Joachim. «Io non posso andare lontano. A quest'ora scendo sempre un po' a Davosdorf e se ho tempo fino a Platz. Si vedono negozi e gente e si compra ciò che occorre. Prima di andare a tavola ci si corica 1 ora e poi di nuovo fino alle 4. Sta pur sicuro». Presero sotto il sole la strada d'accesso e attraversarono il ruscello e lo stretto binario, avendo davanti agli occhi le montagne del versante destro, il piccolo Schahorn, le torri verdi e il Dorfberg, che Joachim veniva indicando per nome. Di fronte, un po' più in alto, c'era il cimitero di Davosdorf, cinto da un muro. Joachim indicò anche questo, col bastone. Così arrivarono sulla strada maestra che, elevata di un piano sopra il fondovalle, portava lungo il versante terrazzato. Castorp, desiderando l'usata e diletta attrattiva della vita, aveva acceso un altro sigaro e forse in virtù della birra precedente riuscì, con sua indicibile soddisfazione, a sentire ogni tanto un po' dell'agognato aroma. Raro però e scarso. Occorreva un certo sforzo nervoso per ottenere un'idea del piacere e il ripugnante sapore di cuoio era pur sempre predominante. Incapace di rassegnarsi alla sua impotenza, lottò un poco per il godimento che o gli era negato o soltanto accennato da lontano come un'ironica intuizione e infine, stanco e schifato, buttò via il sigaro. Nonostante il suo stordimento, sentì il dovere di conversare per cortesia e a tal fine cercò di ricordare le eccellenti cose che aveva avuto da dire intorno al tempo, se non che risultò che aveva scordato tutto il complesso e in testa non albergava neanche la più piccola idea intorno al tempo. In compenso si mise a parlare di condizioni fisiche e anzi in modo un po' strano. «Quando ti misuri di nuovo la temperatura?» domandò. «Dopo il pasto. È giusto. Allora l'organismo è in piena attività e allora deve manifestarsi. Se Behrens ha preteso che debbo misurarmela anch'io, deve aver scherzato, non ti pare? Anche se Tembrini ne ha riso di gusto. Non avrebbe senso, assolutamente. D'altronde non ho un termometro.» «Questo sarebbe il meno», osservò Joachim. «Non hai che da acquistarlo. Qui se ne trovano dappertutto, in quasi tutti i negozi.» «Ma a che scopo?» «Vedi, la cura della sedia a sdraio la posso accettare. La farò anch'io, volentieri. Ma la prova della temperatura sarebbe troppo per un ospite di passaggio. Preferisco lasciarla a voi altri quassù.» Rifecero la strada quasi in silenzio. Castorp incespicò persino alcune volte sulla strada piana e ne sorrise con malinconia, scotendo il capo. Il francese li accompagnò con l'ascensore al loro piano. Davanti al numero 34 si accomiatarono con un breve arrivederci. Castorp, attraversando la camera, si diresse al balcone, dove si abbandonò, com'era, sulla sedia a sdraio. E senza neanche correggere la sua posizione, cadde in un dormiveglia greve, dolorosamente mosso dal battito del cuore. Non capiva da quanto tempo fosse là. Al momento opportuno il gong si fece sentire, ma non chiamava ancora a colazione. Avvertiva soltanto di tenersi pronti. Castorp, che lo sapeva, rimase coricato, finché il fragore metallico rimbombò una seconda volta e si allontanò. In breve, tutti erano seduti alle sette tavole, come se non se ne fossero mai alzati. Questa almeno fu l'impressione di Castorp, impressione beninteso fantastica e irrazionale, che però lì per lì la sua mente annebbiata non seppe respingere, anzi, ne provò un certo piacere. Infatti, durante il pasto cercò più volte di richiamarla, col risultato di un'illusione perfetta. La signora Stör, in camicetta di lana scozzese, era stata alla visita nella mattinata e ne riferiva con le maniere affettate dell'ignorante, sollevando il labbro superiore dei suoi denti di coniglio. Aveva a destra in alto, così si lagnava, un fruscio. Oltre a ciò, sotto l'ascella sinistra, una notevole ipofonia. E 5 mesi, aveva detto il vecchio, doveva rimanere lì ancora. Nella sua goffaggine chiamava il consigliere aulico Behrens il vecchio. D'altra parte era indignata, perché non era seduto a mangiare con loro. Secondo la tournée, voleva dire il turno, toccava alla loro tavola, mentre invece il vecchio era seduto di nuovo alla tavola vicina, a sinistra. Behrens era davvero là e teneva le enormi mani giunte davanti al piatto. Già, era il posto della grassa signora Salomon di Amsterdam, che tutti i giorni veniva a tavola molto scollata, con evidente piacere del vecchio, mentre lei, la signora Stern, non riusciva a capirlo, dato che a ogni visita egli poteva vedere della signora Salomon quanto voleva. Poi raccontò, sussurrando, agitata, che la sera precedente, nella comune veranda di sopra, quella sul tetto, era stata spenta la luce per scopi che lei definì trasparenti. Il vecchio, soggiunse, se n'era accorto e aveva tuonato che lo si poteva udire in tutto il palazzo. Ma naturalmente nemmeno questa volta aveva saputo scoprire il colpevole, mentre non occorreva davvero aver fatto l'università per indovinare che era stato, si intende, quel capitano Miklosic di Bucarest, per il quale in compagnia di donne non era mai abbastanza buio. Un uomo assolutamente privo di educazione, benché portasse il busto, e per sua natura un vero animale di rapina, sì, un animale di rapina, ripeté la Stör con voce strozzata, mentre la fronte e il labbro le si imperlavano di sudore. Quali rapporti ci fossero tra lui e la moglie del console generale Wurmbrandt di Vienna era noto a Dorf e a Platz, e non era più il caso di parlare di rapporti misteriosi. Non contento di entrare talvolta già di bel mattino nella camera della moglie del console, quando questa era ancora a letto, e di assistere a tutto il suo abbigliamento mattutino, il capitano, lo scorso giovedì, era invece uscito alle 4 dalla camera della Wurmbrandt. L'infermiera del giovane Franz, al numero 19, il cui pneumotorace ultimamente era fallito, si era imbattuta in lui. E per la vergogna aveva sbagliato l'uscio che cercava, sicché all'improvviso si era trovata nella camera dell'avvocato Paravant di Tormund. Infine la Stör parlò a lungo di un istituto cosmico laggiù nel paese dove acquistava il dentifricio. Joachim teneva gli occhi fissi sul piatto. Durante il lungo pasto si ebbe un incidente che attirò l'attenzione di Hans Castorp fin dove glielo permisero le sue condizioni. In primo luogo si udì sbattere di nuovo la vetrata. Stavano servendo il pesce. Castorp provò una scossa e, amareggiato, disse a se stesso, in un impeto d'ira, che questa volta doveva scoprire il colpevole. E non lo pensò soltanto, ma lo disse con le labbra, tanto faceva sul serio. «Lo devo sapere», mormorò con ardore esagerato. Sicché tanto Miss Robinson quanto la maestra lo guardarono stupite e si voltò con tutto il busto verso sinistra e spalancò gli occhi arrossati di sangue. Una donna attraversava la sala. Una signora, o forse ragazza, di statura media, in suedar bianco e gonna di colore, coi capelli biondo rossicci avvolti in trecce intorno alla testa. Del suo profilo Castorp scorse ben poco, quasi nulla. Senza rumore, in strano contrasto col fracasso del suo ingresso, andò, quasi scivolando e col capo proteso, fino all'estrema tavola di sinistra, perpendicolare alla porta della veranda, quella che chiamavano la tavola dei russi a modo, tenendo una mano nella tasca dell'aderente giacca di lana e portandosi l'altra alla nuca per sorreggere e ravviare i capelli. Castorp guardò quella mano. Si intendeva di mani e le osservava con attenzione critica. Era avvezzo, quando faceva nuove conoscenze, a guardare prima di tutto questa parte del corpo umano. Non era proprio signorile la mano che reggeva i capelli. Non era accurata e raffinata, come erano di solito le mani femminili nell'ambiente sociale del giovane Hans Castorp. Piuttosto larga, con le dita corte, aveva un che di primitivo e infantile, un po' come la mano di una scolara. Le unghie evidentemente non conoscevano il manicure. Erano tagliate alla bella e meglio, ancora come quelle di una scolara, con la pelle un po' arruvidita ai lati, come se colei coltivasse il vizietto di rosicchiarle. Castorp però, più che vedere tutto ciò, lo intuì. La distanza era troppo grande. Con un cenno del capo la ritardataria salutò i commensali e, mentre si accomodava sul lato interno della tavola, le spalle verso la sala a fianco del dottor Krokowski che vi aveva la presidenza, volse, sostenendo ancora i capelli, la testa al di sopra della spalla e diede un'occhiata al pubblico. E allora Castorp poté notare di sfuggita che aveva gli zigomi larghi e gli occhi stretti. A quella vista qualche cosa o qualcuno gli sovvenne vagamente, di passata. «Una donna, naturalmente», pensò Castorp. E di nuovo lo borbottò espressamente, in modo che la signorina Engelhardt, la maestra, afferrò le sue parole. La squallida vecchia zitella sorrise. «E Madame Chauchat?» spiegò. «E lei l'ha trascurata. Una donna deliziosa». E il morbido rossore sulle guance della signorina Engelhardt aumentò di una sfumatura, come avveniva ogni qualvolta apriva bocca. «Francese?» domandò Castorp rigido. «No, è russa», rispose la Engelhardt. «Suo marito è forse francese o di origine francese. Non lo so con certezza». «Era quello là?» domandò Castorp ancora irritato, indicando un tale con le spalle spioventi seduto alla stessa tavola. «No, non era presente», rispose la maestra. «Non era mai venuto, nessuno lo conosceva». «Dovrebbe chiudere la porta come si deve», esclamò Castorp. «Sempre la fa sbattere, non è educazione». E come la maestra incassò il rimprovero con un umile sorriso, quasi fosse lei la colpevole, non si parlò più di Madame Chauchat. Thank you.